C'è una parola che noi pronunciamo da quando siamo piccoli a quando si diventa vecchi, è una parola semplicissima. Perché un bambino comincia a chiedere perché? Un ragazzino quando si sente dire un no dal papà e dalla mamma, ma perché? Un ragazzo più grandicello, un adolescente, già perché me l'hai detto tu, devo fare come dici tu. Un adulto smette di chiedersi perché, però ce l'ha dentro. O magari chiede perché, perché la pandemia? Ma perché bisogna soffrire? Perché bisogna morire? Io vorrei proporvi un perché che di solito la gente non si chiede. Perché siamo al mondo? E io vi chiedo, se qualcuno di voi ha una risposta, io sono pronto a incrociare la mia discussione con la sua. Perché siamo al mondo? Io sento tante risposte su questo, Boh, siamo al mondo perché mio padre e mia madre mi hanno messo al mondo. Siamo al mondo, ma al mondo, no, questa vita non vale la pena. Ognuno dà la sua risposta. Per chi ha fede, vorrei sapere che risposta c'è. Me la dà il Vangelo di oggi. Qui Gesù dice, io sono venuto al mondo per salvarvi, per questo vado in paradiso a prepararvi un posto, poi ritornerò e vi prenderò con me. Di solito quando io, 50 anni che sono prete, ho fatto migliaia di funerali, pensate che nella parrocchia in cui ero prima, la parrocchia di 20.000 abitanti, in un anno solo, non li ho celebrati tutti io certamente, però abbiamo fatto 191 funerali in un anno. Ma tantissime volte io usavo proprio questo Vangelo e riflettevo per me e per la gente che era lì, e rifletto con voi, vado a prepararvi un posto. Io sono al mondo, se credo in Gesù Cristo, perché mi porta in paradiso. Ma quante poche volte la sento questa risposta? Dalla gente anche che va in chiesa sento tante di quelle sciocchezze sulla nostra fede, che se io facessi un... Ma non è giusto, quante volte, che muoiano i giovani... Lo dice qualche persona giovane dicendo dovrebbero morire i vecchi, no? Vai a dirglielo a un vecchio, poi scappa. Oppure senti qualche persona vecchia che dice ma perché non muoio mai? Cosa sto qui al mondo a fare? Non voglio far tribolare nessuno. E poi quando arriva il suo momento tu li vedi. Perché ai ricchi va tutto bene e noi invece che siamo bravi, ma poveretti, invece non va bene? Don, ma chissà se esiste davvero il paradiso, Lo dite voi preti, ma è il vostro mestiere. Non è il mio mestiere, è la mia speranza. E l'inferno? All'inferno certamente non c'è. E se c'è è vuoto. Perché tu ci sei stato? Oppure hai un tuo inviato speciale all'inferno che ti telefona e ti dice come va? Cosa serve andare in chiesa? La messa non mi dà più niente, non mi dà niente, cosa vado a fare? I miei amici non ci vanno. E Dio? Dio c'è? Ma chi lo chiama Allah? Chi lo chiama Buddha, chi lo chiama Geova, chi lo chiama Yahweh, chi lo chiama Gesù Cristo, ma chissà com'è. Certo che qualcosa dovrà pure esserci, no? Qualcosa, non qualcuno, dice. Poi Dio non è mica giusto nelle cose che fa, e dovrebbe chiedere consiglio a te, che tu sai tutto. Amici, ci rendiamo conto dell'abisso che esiste tra questo modo di parlare, che è il modo normale del mondo, Io sto leggendo un libro che parla della Chiesa in Europa, è impressionante, che ti dice che dalla Spagna, la cattolicissima Spagna, alla Francia, che era chiamata la figlia prediletta della Chiesa, alla Germania, contando sia i cattolici che i protestanti, a tutta l'Europa che va in chiesa dal 3 al 4%, alla domenica. Abbattono chiese, le vendono, ne fanno musei, in qualcuna purtroppo ristoranti. Ci sembra una cosa così da niente, uno non si chiede perché, ma la vita che cos'è? Perché? Gesù mi dice, la vita è conoscere me e poi venire con me in paradiso. Purtroppo io questo ragionamento non lo sento neanche da voi, neanche da voi. Perché di fronte ad alcune morti io sento sempre dire, ma non è giusto. Ma io sono arrabbiata col Signore perché mi ha preso mio fratello, che me lo diceva una donna di 92 anni, che era morto suo fratello di 93. Non è giusto, no? E io ho detto, ma quando dirai un grazie a Dio che ti ha lasciato insieme per 92 anni? Il vero problema, cari amici, è il perché. Il perché della vita. La prima lettura ci portava un episodio poco conosciuto ma bellissimo. Paolo e Sila, il suo segretario, nei loro viaggi evangelici sono capitati a Filippi, una città della Grecia, una città romana, era stata costruita per darla ai veterani dell'esercito romano, ai legionari. E lì c'era una ragazza che, schiava, che prediceva il futuro alla gente e faceva guadagnare molti soldi ai suoi padroni. E questa ragazza, incontrando Paolo e Sila, li seguiva e diceva alla gente: ma questi qui sono veri servi di Dio, annunziano la via della salvezza. Solo che a Paolo non gli stava bene questa pubblicità. Era una pubblicità dubbia, perché questa che si faceva passare come indovina, voi sapete che gli indovini non sono quelli che prevedono il futuro. Qualcuno di voi sa come si chiamano quelli che prevedono il futuro? Imbroglioni. Si chiamano così. Altro che maghi, indovini o che cosa. La gente va e ci lascia le decine o le centinaia di euro per farsi dire quello che desidera sentirsi dire. Nessuno conosce il futuro se non Dio. E un pochino anche il diavolo. Il diavolo non lo conosce, però essendo uno spirito sopraffino, è un angelo, qualcosa riesce a intuire. E allora chi dice il futuro, anche voi amici, se incontrate, ho incontrato una zingara, ho incontrato un'altra, mi ha detto, mi conoscevo perfettamente e non mi aveva mai visto. Già, questo è il diavolo che ti tende un amo affinché tu abbocchi. Allora questa è una persona indemoniata. Perché Dio non si presta a questi giochini da baracconi. E allora Paolo dice: non voglio più che tu ci segua e ci dica queste cose, vai via, vai dal tuo padrone. E lei perde la capacità medianica del futuro. I suoi padroni denunciano Paolo e Sila, vanno in tribunale, sono condannati, sono messi in prigione, ma Dio non li abbandona. Di notte manda una bella scossa tellurica di terremoto, scassa la prigione, schioda dai muri i ferri con i quali sono legati mani e piedi. Il capo della prigione, vedendo tutto sto conquasso, dice: aiuto, sono scappati, e prende la spada per uccidersi, perché dice: se no i miei superiori mi tortureranno, me ne faranno. Paolo lo fece: no, non farti del male, noi siamo qui ancora, non siamo mica scappati. Quest'uomo non capisce più niente. Prima il terremoto, poi questi qui così strani che invece di scappare si fermano lì a cantare. Dice: ma voi che gente strana siete? Ma noi crediamo in Gesù. Cosa devo fare per salvarmi? Dice lui: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Questo è l'annuncio cristiano. Tutto il resto non è cristiano. Cristiano chi è? Quello che fa del bene? No. Il bene lo può fare anche un non cristiano. Il cristiano è la persona che cerca di essere un cittadino perfetto? No. Lo possono fare anche gli altri. Fatevi tante di queste domande. Il cristiano è quello che crede in Gesù Cristo e in quello che Gesù Cristo dice: la vita su questa terra seguendo Gesù è il paradiso. Ma se un cristiano non crede nel paradiso, potrà essere un galantuomo, potrà essere una persona spesa a fare tutto il bene di questo mondo, ma non è cristiano. Cristiano deriva da Cristo. Perché siamo al mondo? Questa domanda, io per me la risposta la so. Per seguire Gesù Cristo in questa terra e nell'altra in paradiso. La vostra risposta chiedetevela voi.